Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Buonasera a tutti e tutte, questa settimana vogliamo iniziare così. Poche ore fa è stata annunciata questa scoperta che tutti i fisici e non solo aspettavano da quasi un secolo, da quando cioè Einstein pubblicò la teoria della relatività generale nel 1916. Ora abbiamo la prova diretta dell'esistenza delle onde gravitazionali che sono state finalmente rivelate dai ricercatori di un team internazionale. L'annuncio è stato dato in una conferenza congiunta in sede americana Washington dal progetto LIGO e dalla sede pisana di Virgo, che sono i nomi di questi due progetti che attraverso gli interferometri laser avevano l'obiettivo, mi viene da dire raggiunto, di dimostrare l'esistenza di queste onde. Mebius ha seguito l'evento, Federico in collegamento da Washington, io qui in radio via streaming ho seguito l'annuncio a Pisa. Per la scienza e non solo è stata una scoperta straordinaria, vi facciamo sentire le voci e i suoni di quei momenti carichi di eccitazione e di soddisfazione. Ciao Federico, tu sei a Washington, io sono qui a Milano in radio. Hanno appena dato l'annuncio congiunto Washington-Pisa. Com'è lì l'atmosfera? Siamo in un'aula molto piccola. Io vi devo parlare un po' sottovoce perché mentre appunto vi racconto le cose è in corso la conferenza stampa. Insomma, per una scoperta che qui è stata paragonata al primo momento in cui Galileo ha puntato un telescopio verso il cielo, certo forse si poteva essere in un'area più grande, però insomma così c'è una tensione anche più forte, siamo impacchettati insieme a telecamere, ce ne sono almeno una quarantina, e in questo momento sta parlando Kip Thorne, che è uno dei quattro scienziati che hanno avuto la funzione di coordinamento dei due progetti, dei due esperimenti che si tenevano, uno nello stato di Washington e l'altro nella Louisiana. Il momento più emozionante è stato quando Gabriela Gonzalez, che è uno dei quattro scienziati qui presenti alla conferenza stampa, ha fatto sentire che cosa? Qualunque segnale, se vogliamo, può essere trasformato in un segnale sonoro, e così loro hanno fatto, e si sente appunto la traduzione del segnale delle onde gravitazionali in un suono che lei, in modo molto, devo dire, suggestivo e romantico, ha definito un cinguettio. Allora facciamolo sentire appunto, esatto, questo suono che la Gonzalez ha fatto sentire alla conferenza americana. Ecco, questo cinguettio è il segnale che ci arriva dallo scontro di due oggetti, di due black hole che messi insieme sono 65 volte le masse solari, la massa del Sole, però in uno spazio che è di 150-200 km, quindi potete bene immaginare quanta massa ci sia in quel luogo, e quel piccolo cinguettio è quello che è arrivato qui. C'è stata in aula una sensazione, un wow, così, una roba molto emotiva, perché certo questo è il segnale che ci arriva dallo spazio più profondo. Adesso nella conferenza stampa si stanno facendo vedere molte delle technicalities che sono state usate in questo esperimento, e certo si sta capendo come sia davvero impressionante essere riusciti ad avere una sensibilità di questo genere. Insomma, siamo a segnali che sono un decimillesimo del diametro di un protone. Ecco, adesso c'è stato un applauso. Ecco, e ti posso dire che qui in Italia, a Pisa, diciamo che la sensazione di entusiasmo era assolutamente la medesima. Entreremo anche nel dettaglio di tutte queste technicalities, di come funzionano gli interferometri, che appunto sono i rivelatori di queste onde, insieme ad un ospite tra pochi secondi, insomma. Va bene, allora io vi qui saluto, vi saluto da Washington, e il clima qui è decisamente entusiasta e anche però molto molto molto sorpreso, insomma c'è la sensazione, una grande suggestione rispetto a questa scoperta. Sì, perché c'erano dei rumors, ma non si sapeva in realtà se davvero fossero state rilevate e da chi fossero generate, cioè da due buchi neri. Ecco. Hanno spiegato bene che ad un certo momento hanno visto questi due segnali perfettamente sovrapponibili, che hanno lavorato come dei matti tutti i giorni per riuscire a capire se c'erano altri disturbi. Tenete presente che, per esempio, in uno degli esperimenti, quello della Louisiana, hanno dovuto addirittura proteggere da delle seghe circolari che in quella città spesso durante il giorno vengono usate perché c'è vicino una foresta di pini e la usano per il legno. Hanno dovuto proteggersi da quello, come proteggersi dalle onde del mare che sono a 100 km di distanza, per eliminare tutte le possibili interferenze. Ecco, infatti, andiamo a capire anche come funziona l'interferometro, anche quello che abbiamo qui noi, Virgo, insomma, perché hanno collaborato strettamente LIGO, questo progetto americano, e quello italiano, Virgo. Quindi adesso ci spostiamo qui nelle terre di casa nostra e sentiamo Gianluca Gemme, che è responsabile dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, appunto, che lavora su Virgo e che è firmatario di questo articolo. Grazie Federico, ti aspettiamo in studio. Arrivo. E quindi ci colleghiamo con Gianluca Gemme, che è responsabile per l'INFN, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Virgo, che in questo momento si trova proprio a Cascina, a Pisa, dove è appena stato dato l'annuncio. Intanto buonasera, congratulazioni, inutile dirlo, lei è uno dei firmatari di questo articolo, di questo lavoro così impegnativo. Sì, la ringrazio, sono uno dei firmatari insieme a mille altri colleghi, sì, che hanno contribuito a questo grande risultato, a questa grande impresa. Oh, veniamo alla scoperta, che cosa avete annunciato? Noi l'abbiamo in parte detto, però insomma lascio a lei raccontarlo. Beh, abbiamo annunciato la prima rivelazione diretta di onde gravitazionali, è un evento che era atteso nel mondo scientifico da 100 anni, sì, da quando Einstein pubblicò la sua teoria della relatività generale, e lo sforzo sperimentale per arrivare a questo risultato è cominciato 50-60 anni fa, quindi insomma ci è voluto parecchio tempo e parecchio sforzo, ma finalmente ci siamo arrivati. Oh, bene. Adesso però dobbiamo cercare di raccontarlo, questo esperimento. Appunto congiunto, lo abbiamo detto più volte, LIGO negli Stati Uniti, i due interferometri, e Virgo qua in Italia, a Cascina, Pisa, hanno lavorato in maniera congiunta. Voi avete studiato dati per anni. Che cosa avete rilevato? Abbiamo detto le onde gravitazionali, riusciamo a spiegare? Lo so, non è semplice che cosa sono. No, non è semplice. Quello che noi abbiamo rilevato è la fusione di due buchi neri, quindi di due oggetti molto compatti con una massa di 20 volte più grande della massa del nostro Sole, che si sono fusi insieme e hanno dato vita a un nuovo oggetto, a un nuovo buco nero che è nato dall'unione di questi due oggetti precedenti. Per fare un'analogia, quello che noi abbiamo fatto è sentire, diciamo, il vagito, la nascita di questo nuovo oggetto che è nato dalla fusione dei due buchi neri precedenti, solo che è un vagito che è avvenuto 1,3 miliardi di anni luce lontano da noi, quindi il suono che è arrivato fino a noi è molto debole in un modo inimmaginabile, certo. E quindi lo strumento che abbiamo costruito per ascoltare questo suono è dotato di una tecnologia estremamente avanzata, estremamente complessa. Gemme, rimanga con noi, ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico e torniamo subito. Digital Radio Flash. Ciao, sono Max. Ma è vero che la Digital Radio si sente perfettamente anche mentre guida in autostrada? Sì, perché è un sistema nuovo che migliora l'esperienza d'ascolto con una qualità dell'audio estremamente avanzata. E puoi ascoltare la tua radio in Digital Radio già sul 70% della rete autostradale. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Torniamo con Gianluca Gemme, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha partecipato allo studio appunto sull'esistenza, sulla prova diretta delle onde gravitazionali. Allora, possiamo per semplificare un po' l'immagine dire che questa massa enorme, abbiamo detto 62 masse solari, quindi come se fossero 62 soli, hanno generato appunto la fusione di questi due buchi neri, hanno generato questa massa, e possiamo vederla un po' come un sasso lanciato in uno stagno che genera insomma le increspature dell'acqua, così un po' ha modificato il nostro spazio-tempo fino ad arrivare a noi con questo, come dire, impercettibile messaggio che appunto gli interferometri poi hanno captato? Sì, questa perturbazione impercettibile dello spazio-tempo è arrivata fino a noi da una grande distanza nello spazio, 1,3 miliardi di anni luce, e anche una grande distanza nel tempo, perché non dimentichiamo che 1,3 miliardi di anni luce vuol dire che questo evento che noi abbiamo rivelato il 14 di settembre è avvenuto 1,3 miliardi di anni fa, quindi molto prima che noi fossimo su questo pianeta. Certo, il presidente dell'INFN l'ha raccontata anche con una battuta durante la conferenza, Fernando Ferroni. Quando loro vi hanno detto che un atomo tra qui e il Sole, no? Cioè la distanza tra il Sole e la Terra è cambiata di un atomo, beh, c'è questo, insomma, chi se ne frega. Per favore, pensate se improvvisamente all'origine, perché quell'oggetto sta 1 e 3 miliardi di anni luce là, all'origine non è un atomo tra la Terra e il Sole, sono Pisa e Livorno che si fondono insieme. Quindi una battuta per farci capire che insomma è veramente un segnale impercettibile che però ci racconta invece un evento davvero straordinario, mastodontico, non abbiamo più aggettivi per descriverlo. È un evento mastodontico, l'energia che è stata liberata dalla fusione dei due buchi neri è pari a 3 volte la massa del nostro Sole, quindi una quantità di energia inimmaginabile. Questo è uno dei fenomeni più energetici che sia mai stato misurato. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro appunto di questi interferometri, al vostro che poi ne avete interpretato i dati. Riusciamo a capire che cosa sono, come funzionano questi interferometri? Lo so che è difficile per radio. Beh, l'interferometro si basa su un principio relativamente semplice. Noi mandiamo un raggio di luce lungo due bracci che sono perpendicolari l'uno rispetto all'altro. Questo raggio di luce percorre tutta la lunghezza del braccio, che nel caso di Virgo è 3 km, nel caso degli interferometri di LIGO è 4 km, rimbalzano su uno specchio che alla fine di questi bracci e tornano indietro e si ricombinano nel punto da dove sono partiti. Se la lunghezza dei due bracci è esattamente la stessa, i due fasci ricombinandosi si annullano, fanno quella che noi fisici chiamiamo un'interferenza distruttiva. Se la lunghezza di uno dei due bracci si modifica leggermente rispetto all'altro, questa ricombinazione si modifica in maniera tale da poter essere misurata, e l'effetto dell'onda gravitazionale è esattamente questo, quello di modificare di una quantità infinitesima la lunghezza relativa dei due bracci dell'interferometro. Ecco, e in quel modo insomma avete capito che era successo qualcosa di straordinario in quel segnale. Possiamo capire da dove arriva, cioè dove è posizionata questa enorme massa? Non è facile capirlo con precisione. Questo segnale è stato rivelato dai due interferometri di LIGO negli Stati Uniti, perché Virgo in questo momento è ancora in fase di costruzione, entrerà in operazione, in presa dati alla fine di quest'anno. Con solo due interferometri attivi è molto difficile localizzare con precisione la direzione della sorgente. Questa è una delle ragioni per cui Virgo sarà molto importante. Riuscirete in qualche modo a triangolare, a cercare un po' il con punto. Con Virgo riusciremo a triangolare e riusciremo a localizzare, quando riveleremo nuovi segnali, con precisione molto maggiore la direzione della sorgente. E a quel punto si potrà anche puntare ad esempio qualche telescopio ottico cercando di captare davvero qualcosa anche dal punto di vista visivo? Certamente, questo lo stiamo già facendo, abbiamo accordi di collaborazione con circa 70 gruppi di astronomi in tutto il mondo che rispondono ai nostri avvisi, puntano i loro strumenti, solo che oggi lo fanno con una grande incertezza perché la posizione nel cielo non è ben definita. Quando Virgo sarà presente lo faranno con molta più precisione e certamente sarà molto interessante vedere cosa scopriranno. Ecco, questa è una scoperta che conferma ancora una volta la teoria della relatività generale. Questo è il dato insomma che noi al presente abbiamo, ma possiamo capire un po' che scenari ci apre adesso questa scoperta che appunto è sensazionale? Beh, questo è l'aspetto più entusiasmante secondo me. Oggi non è la fine di una storia, la fine di questo grande sforzo sperimentale scientifico per raggiungere per la prima volta la rivelazione diretta delle onde gravitazionali. È l'inizio di una storia che sarà molto più interessante, si apre un capitolo completamente nuovo, una nuova scienza, una nuova fisica, una nuova astrofisica. Sicuramente le onde gravitazionali, quando la loro rivelazione diventerà più frequente, quando i segnali ci arriveranno con maggiore frequenza, ci sveleranno segreti che oggi non riusciamo ancora a immaginare. Va bene, intanto allora io la ringrazio, le faccio ancora i complimenti da ovviamente diffondere a tutto il team, e ci sentiamo insomma quando Virgo ci rivelerà appunto anche qua in Italia un altro segnale di questo genere, un'altra bella notizia così. Sì, come dicevo oggi, probabilmente quello di oggi resterà il giorno più importante nella mia vita professionale di scienziato. Però il giorno più bello sarà quando anche Virgo rivelerà per la prima volta un segnale di onda gravitazionale. E ce l'auguriamo tutti. Grazie, davvero buon lavoro. Grazie, buonasera. Argo era il cane di Ulisse, ma soprattutto era il nome della nave degli Argonauti. Sì, e da pochissimi giorni è stata annunciata questa Argo Moon. Il nome, devo dire, è molto bello. Ed è un'eccellenza italiana, una tecnologia italiana. Ed è stata progettata da un'azienda italiana, che è appunto Argotech, in collaborazione coordinata dall'Agenzia Spaziale Italiana. E l'annuncio è stato dato dalla NASA perché appunto questo Argo Moon, che adesso ci faremo raccontare che cos'è, un nanosatellite, verrà caricato a bordo di una prossima missione che si chiama EM1, che sta per Exploration Mission 1, che permetterà alla NASA di prendere le misure per una futura partenza umana per andare a esplorare Marte. Allora, buonasera Davide Avino. Buonasera. Lei è amministratore delegato di Argotech. Ecco, Argotech è assoluta protagonista insieme all'Agenzia Spaziale Italiana di questa tecnologia di cui appunto andiamo orgogliosi, che si chiama Argo Moon. È un nanosatellite. Che cosa sono i nanosatelliti intanto? Ma in questo caso è un nanosatellite, ma davvero nano, perché è una cosa davvero molto molto piccola. Generalmente la si paragona ad una scatola da scarpe più o meno, quindi 30 centimetri per 20 per 10 di altezza. E immaginate che noi dobbiamo comprimere tutta la tecnologia all'interno di questo volume molto ristretto, e soprattutto renderlo affidabile molto lontano dalla Terra, quindi non come magari i nanosatelliti che volano adesso sulle nostre teste, ma mandarlo molto molto più lontano, perché questa Exploration Mission sarà, come avevate detto voi, la prima esplorazione, la prima missione dove viene testato il nuovo sistema di lancio della NASA, l'SLS. Ecco, ce lo spiega un attimo, perché si dice che è un veicolo che dovrebbe anche trasportare umani, ma però farebbe il primo viaggio senza a bordo nessuno. Ma ci descrivo un attimo questo tipo di veicolo, così poi riusciamo a capire il perché dei satelliti. Un nuovo sistema di lancio, quindi il nuovo veicolo, e in testa, potremmo dire così, al veicolo c'è una capsula. La capsula viene chiamata Orion e in futuro, non in questa missione del 2018, ma in futuro, porterà anche degli astronauti a bordo. È l'unico veicolo che dal 2018 in avanti riuscirà ad allontanarsi dalla Terra, non come quelle, le capsule che ci sono adesso, le Soyuz o in precedenza lo Shuttle, ma in questo caso andrà anche molto più lontano, fino magari a portare l'uomo sulla Luna, magari su un asteroide e forse anche su Marte. Ma noi dobbiamo immaginarci allora un veicolo di questo tipo operativo con su umani che incomincia a girare sperimentalmente intorno alla Luna e utilizzano questi satelliti? Ecco, cosa succederà? Che a questo punto questo nuovo sistema di lancio con la capsula in alto, abbiamo detto, a un certo punto a circa 27.000 chilometri lancerà e espellerà, in questo caso la capsula, questa capsula Orion. Subito dopo all'interno ci sono questi 13 nanosatelliti, questi piccoli satelliti, e noi abbiamo chiesto di essere anche noi espulsi per primi. Perché per primi? Non perché siamo protagonisti, ma perché in realtà vogliamo monitorare e aiutare anche la NASA in questo test, quindi monitorare quelle che sono le attività di questo veicolo di lancio. Quindi sono 13 nanosatelliti tutti diversi, che hanno ovviamente obiettivi e tecnologie diverse. Argo Moon rappresenta uno di questi. Argo Moon rappresenta uno di questi. È carino ricordare che 10 sono americani e l'unico europeo è proprio il nostro, che è stato selezionato attraverso l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea, finalmente selezionato anche dalla NASA. Ma cosa faranno però questi? Cosa vuol dire monitorare il comportamento del veicolo principale? Noi abbiamo tre obiettivi principali. Uno, testare questa tecnologia di questi nanosatelliti, che siano abbastanza reliable, affidabili anche in uno spazio molto lontano dalla Terra, come dicevamo prima, dove le radiazioni in realtà possono inficiare molto sulle funzionalità dei sistemi stessi. E questo Quindi tecnologia italiana, preminentemente italiana, e quindi siamo molto molto orgogliosi. Il secondo obiettivo è quello di scattare tutta una serie di foto, non solo storiche, ma anche foto e video durante proprio il rilascio degli altri satelliti, in modo da supportare la missione stessa e dire ma funziona tutto. Immaginiamoci un drone spaziale. Ecco, infatti, una sorta di monitoraggio dall'esterno, insomma, si guarda che cosa sta succedendo se appunto il lanciatore procede. Ed è assolutamente corretto, ed è la prima volta che in questo caso un drone spaziale di queste piccole dimensioni monitora un altro spacecraft a distanza così lontane. Ma perché ha importanza riuscire a capire? No, dico questo perché abbiamo lanciato tante cose intorno alla Luna, intorno ad altri pianeti, insomma, ha importanza per questa missione diversa che, appunto, come diceva lei, dovrebbe preludere a missioni come quella su Marte o su asteroide. Ha importanza capire come questo veicolo che porterà umani si muove in orbita, farà delle operazioni, degli spostamenti. È importante capire questo, mi pare. È assolutamente fondamentale perché, come abbiamo detto, è il primo test di questo nuovo veicolo spaziale. Come tutti i test bisogna assolutamente monitorare qualsiasi dettaglio, dalla telemetria ai sistemi di propulsione. Faccio un altro esempio proprio quasi banale. Quando c'è stato l'incidente dello shuttle Columbia, subito dopo la NASA ha installato una telecamera, ricordiamo che questo era dovuto alle piastrelle dello scudo termico, la NASA ha installato una telecamera su un braccio robotico che era a bordo dello shuttle, e ogni volta che lo shuttle veniva poi lanciato ed entrava in orbita, la prima cosa che facevano era quello di utilizzare questo braccio con una telecamera per fare tutte le perlustrazioni all'esterno. Sì. E quindi si capisce che è fondamentale monitorare non solo i sistemi di telemetria, ma soprattutto avere dei riscontri fotografici. E in questo caso noi abbiamo offerto, ed è questo che è piaciuto molto alla NASA, offrire questo tipo di supporto alle loro operazioni. E non solo, abbiamo anche inserito un nuovo sistema di comunicazione che cercheremo poi di testare, che potrebbe in un futuro migliorare anche le comunicazioni stesse. E questo era un po' il terzo obiettivo di cui ci parlava prima, l'abbiamo interrotta. Certo, questo qui era il terzo obiettivo. Capite che è molto complicato riuscire soprattutto ad integrare tutto in 30 cm per 20, cercare praticamente di utilizzare una tecnologia sempre molto più stabile ed affidabile e miniaturizzarla, quindi metterla praticamente in piccole dimensioni. Lo comanderete da terra? Noi avremo un centro di controllo, attraverso poi i dati e anche i video che arriveranno, verranno poi rimbalzati e verranno mandati da noi. E sapete già, avete già un'idea di quanto durerà, di quanto resisterà? Lo scopo nostro della missione è di farlo durare qualche anno, anche se poi in realtà la missione di per sé durerà molto di meno. Molto meno. Va bene, grazie Avino. Noi siamo molto orgogliosi della tecnologia italiana. Grazie Avino, buon lavoro. Grazie a voi e buona serata. E poi al 2018 con le prime immagini. Certo. Sì. Cosa succede adesso che vi auguriamo? Che purtroppo la trasmissione è finita e noi vi auguriamo buona settimana a tutti. E a tutte. Ciao. Ciao.